24 di Giovanni Minoli. I 28 al vertice di Bruxelles non riescono a trovare una voce comune. Hanno sì condannato fermamente la Russia, senza però accennare a possibili sanzioni. Il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk al suo arrivo ha precisato: oggi non si prenderanno decisioni, ma voglio sottolineare che l'Unione europea dovrebbe tenere aperte tutte le opzioni, incluse le sanzioni. Londra, insieme a Parigi e Berlino, spingeva per nuove sanzioni contro la Russia. L'insistenza per punire i russi non è bastata a smuovere le resistenze italiane, oltre che greche e cipriote. Bisogna arrivare a fare tutte le pressioni possibili, perché si faccia un accordo in Siria, difficile immaginare che questo abbia a che vedere con ulteriori sanzioni alla Russia. Le conclusioni del Consiglio europeo sulla Siria parlano di tutte le opzioni, ma senza spingersi a evocare nuove sanzioni nei confronti del più importante alleato di Assad, Vladimir Putin. Condannata almeno a parole, ma non punita. Ancora una volta la Russia fa emergere le divisioni europee. Buongiorno, bentornati a Mix 24. Dunque, il presidente Renzi ha alzato la voce in modo deciso in Europa sulle sanzioni alla Russia collegate alla guerra in Siria. Ci si era interrogati moltissimo durante il viaggio a Washington sul se e quando Renzi avrebbe parlato con Obama di Putin e delle sanzioni alla Russia. La maggioranza dei commentatori nei giorni scorsi aveva avuto la sensazione che l'argomento non fosse stato trattato. Ecco, ma secondo voi, Mario e Pietrangelo, ne hanno parlato oppure è una posizione autonoma di Renzi? Mario? Ma ha parlato sicuramente, questo mi pare abbastanza evidente. E accordo con gli Stati Uniti su questo punto? Secondo me no. Perché... Cioè, quindi secondo te non può essere Obama gli abbia dato un ok, a essersi espresso già per il sì? No, perché il capitolo delle sanzioni contro la Russia per gli Stati Uniti è strategico, quindi c'è stato un confronto sicuramente, forse Renzi gli ha anche detto vediamo, non lo so, però alla fine... Secondo te no, ecco, no, Pietrangelo no. Invece, insomma, questa volta Renzi ti ha fregato. Guarda, Renzi è una sorta di Poroshenko del Mediterraneo. Cioè? Lui è il più allineato alle decisioni degli Stati Uniti di qualunque altro premier, ma in questo caso su lui c'ha un obbligo quantificato nella cifra di 32 miliardi di euro. Questo è il danno che grava addosso alle aziende italiane bloccate dalla sanzione alla Russia. A mio parere, siccome poi torna indietro spesso, lo fa volentieri e lo fa continuamente, naviga a vista, questo è soltanto uno spot. È una mossa obbligata in vista del referendum. Ricordiamoci che lui perse le regionali in Veneto proprio quando aveva sottoscritto le sanzioni alla Russia, quando era convinto di eleggere, come si chiamava la candidata che doveva destinarsi alla presidenza della regione, che era famosissima, quella, la Lady Like. Che ora aspetta, Alessandra Moretti, avevano stravinto nel Triveneto. Vi ricordate? Nel referendum aveva avuto un grandissimo successo. Vabbè, insomma, tu dici la Batosta che... l'ha avuta in quando ogni caso, lui... la Batosta elettorale l'ha avuto quando, diciamo che, facendo le sanzioni minimo... alla Russia, ha messo in ginocchio le aziende come italiane. Minimo impara le lezioni. Come minimo impara sì, la poi lezione. Cambierà ecco. Subito dopo. Vabbè, per adesso ha detto questa cosa, però... non ne prendiamo atto, ci può essere un margine elettorale ed in dubbio, perché la concretezza poi fa parte della vita politica. Comunque è innegabile che abbia fatto una cosa inaspettata e buona. Secondo te prova a giocarsi la partita del sì, come dice Pietrangelo, anche usando argomenti di politica estera, sì, argomenti anti-europei, diciamo in qualche modo anti questa Europa? Ma assolutamente sì, questo fa parte anche di una campagna referendaria. È più che legittimo che un politico, sia Renzi o sia un altro nome, ha poca importanza in questo caso, usi tutte le armi a sua disposizione. tieni presente che, ma tu lo sai benissimo, gli argomenti contro l'Europa oggi non mancano. Alcuni assolutamente anche molto fondati, aggiungo. Certo. E c'è una quota di opinione pubblica che, pur essendo di fede, di sincera fede atlantista, chiamiamo così, ha dei dubbi sui comportamenti, ha dei dubbi sui comportamenti della, certo, NATO, e riconosce a Putin, nonostante Putin sia sicuramente un despota, però la qualità del comando, ecco, rispetto, e del carisma. Rispetto a questi comportamenti della NATO, in effetti resta il fatto che mandare 130 soldati italiani in Lettonia segnala una dipendenza, in qualche modo, un po', non per dar ragione a Pietrangelo, sì, ma un pochino, mi ha un colpito, pochino, no? Mi ha c'è colpito. Un po' una contraddizione da una parte, dire no le sanzioni, però sì 130 militari. Allora, infatti, mi ha scusate, una cosa è detta a voce, no alle sanzioni, una cosa sono i fatti, che quelli che hai appena ricordato, vabbè, cioè dai, mettere, i militari italiani al non confine, sono ancora andati, provo a anche quello è detto a voce. Sempre a voce, lo dico. Allora, facciamo la radio. Stiamo in un club, cioè nella NATO. Quelle, la prima cosa, le regole della NATO sono quelle. Però io sono molto d'accordo su alcune cose che ha detto Romano Prodi qualche giorno fa. Sì. E cioè, ho l'impressione, anche io, e spero di sbagliarmi, che la situazione sia un po' sfuggita di mano alla politica sia entrata nelle mani dei militari. Ecco, e questo è un tema molto interessante che affrontiamo subito, insomma, in diretta con Gianandrea Gaiani. Buongiorno, direttore di Analisi e Difesa, collaboratore del Sole 24 Ore. Allora, un po' così, è un po' sfuggita di mano la politica e adesso è più in mano ai militari che comandano? Io credo che gli americani, in particolare gli angloamericani, a livello politico abbiano l'interesse a mobilitare l'Europa, la NATO contro la Russia, per, nell'ambito di un programma strategico che comincia con il Maidan in Ucraina, per staccare il colosso industriale europeo dal colosso energetico russo che stava creando una superpotenza. Gli angloamericani intervengono sempre in Europa quando in Europa sta creandosi una superpotenza. Ma quindi secondo lei... Però i militari in questo momento, dopo anni di vacche magre, di tagli ai bilanci della difesa, anche adesso vedono delle buone occasioni, vedono una buona occasione. Diciamo che l'ISIS e Al-Qaeda non portano grandissimi aumenti di bilancio, aumentano le spese per le operazioni militari, ma non i bilanci per acquistare armamenti. Una sana minaccia vecchio stile con carri armati, cioè guerra fredda, insomma. I russi, l'orso russo ingigantisce, gonfia i bilanci, e questo ai generali sicuramente gli piace. Cioè, ma secondo lei è credibile l'accusa della Casa Bianca a Putin di voler alterare il voto elettronico delle elezioni americane, insomma questa cyberguerra? Si alza l'asticella, finora mi pare che l'unico a minacciare, forse anche assurdamente, visto che la guerra cyber si fa senza attribuirsi la responsabilità, ma l'unico a minacciare azioni di cyber attack è stato Joe Biden nei confronti della Russia. Quindi... perché tutti giochino sotto banco, non c'è dubbio, ma che Putin possa andare a alterare il voto presidenziale americano, no, la vedo. Senta Gaiani, insomma, mandare questi 130 soldati italiani in Lettonia, secondo lei è possibile che i russi siano in grado di occupare Tallinn e Riga in meno di 60 ore senza trovare resistenza da parte della NATO? Certo, non sono quei 130 soldati che... No, sono 130 inseriti in un gruppo di 4.000, battaglioni che non alterano i rapporti di forza, ma danno un senso politico di solidarietà alle repubbliche baltiche che storicamente temono prima i sovietici, prima oggi di tutto, i russi. Sì. La nostra partecipazione è puramente simbolica, io credo sia legata al fatto che al vertice NATO di Varsavia l'Italia ha chiesto alla NATO un maggiore impegno sul fronte sud, certo, Libia, migranti, e quando chiedi una solidarietà devi dare qualcosa in cambio. Ecco, ma intanto... Poi sull'occupazione delle repubbliche baltiche io credo che sia un fatto gioco, nel senso che, certo, i russi non hanno nessun interesse, loro giocano in difesa per conservare i loro interessi, certo, in Ucraina, non per attaccare la NATO. Senta, ma in Siria sarebbe dovuta essere una guerra lampo quella che adesso è partita, scatenata dalle forze russe, siriane, peshmerga turche, contro il terrorismo, e a che punto siamo? È lampo o no? Ma I russi sono attivi da oltre un anno. Certo, no, ma questo... Questa offensiva su Aleppo, sì, e sulla zona del nord in mano all'ISIS, sta andando avanti abbastanza bene per le forze di Assad e per i russi. È chiaro che in una zona come urbana come Aleppo fare una guerra lampo vuol dire radere al suolo tutto e ammazzare un sacco di civili. Certo, già quindi, in un momento in cui le vittime civili quindi vengono è complicato scegliere bersaglio da bersaglio. Ma l'entità proprio dal punto di vista militare delle forze russe impiegate in Siria qual è? Beh, noi abbiamo circa 5.000 uomini, qualcuno dice un po' di più se contiamo anche contractors, cioè sì, uomini, diciamo, reparti non inquadrati militarmente ma di ex militari che affiancano le truppe di Bashar Assad, e una cinquantina fra aerei ed elicotteri, più anche reparti terrestri che fanno consulenza, supporto e soprattutto artiglieria con grandi capacità di fuoco e di precisione, che sono quelli che danno una mano a colpire il più possibile le forze qaediste di Al-Qaeda, ex Al-Qaeda dentro Aleppo e in altre zone, cercando di non colpire troppo più facilmente i civili. Senta, Gaiani, ma gli americani tutto questo che fanno? Beh, loro stanno dando una mano agli iracheni su Mosul, sul fronte iracheno, e sul fronte siriano continuano qualche azione sempre molto blanda contro l'ISIS. Continuo a ricordare ogni volta che me ne date l'occasione che le incursioni della coalizione a guida americana, quindi di tutte le forze alleate, sulla Siria e sull'Iraq complessivamente sono in circa 18-20 al giorno. Cioè, modestissime. Su tutta quella zona. Solo su Mosul sono 6 al giorno di questi giorni in cui c'è l'offensiva. Quindi, insomma, diciamo punture di spillo. Poi ci sono le forze speciali, ma insomma nulla di risolutivo. Senta, ma è possibile che il Pentagono coltivi un'idea di rivincita contro la Russia proprio sulla Siria? Beh, insomma, il fatto che gli angloamericani vogliono condannare per crimini di guerra proprio loro, azioni contro i civili, la Russia che sta bombardando e colpendo le milizie qaediste, e proprio gli angloamericani dovrebbero essere i primi ad avere conti in sospeso con Al-Qaeda per l'11 settembre, per Londra nel 2005, beh, già questo ci dice che lo schieramento occidentale che in Iraq è contro i jihadisti, in Siria dà una mano ai jihadisti che combattono contro Assad e contro la Russia. Senta, questo è un po' paradosso per l'Occidente. Certo, naturalmente. Senta, Gaiani, si dice, non so se sono voci attendibili, che la Clinton, se vincesse, proprio per, come dire, per trasformare in americana quella guerra, vorrebbe una no-fly zone sulla Siria. È possibile? Ma una no-fly zone sulla Siria vuol dire la guerra con i russi, nel senso che era l'obiettivo di Erdogan, di Ankara. Ankara sta già conquistandosi la sua no-fly zone perché sta prendendo il controllo del nord della Siria per impedire che diventi uno stato autonomo curdo. E impedire ai russi, che hanno i loro aeroplani basati in Siria, oltre che sulla porta aerea che sta arrivando, di volare sulla Siria, tra l'altro in un paese in cui il governo ancora legittimo, quello di Bashar Assad, ha invitato i russi, sarebbe puramente un'azione una di follia. Guerra, non si arriverà, perché si arriverebbe a una situazione tipo Cuba del 63, un rischio davvero di scontro diretto fra Russia e Stati Uniti. Sì, io però credo che la Clinton sia lì per proseguire la politica di Obama. È stata abbastanza confusa la politica di Obama, no? Assolutamente, però proprio perché è confusa è pericolosa, perché aumenta la destabilizzazione e anche il rischio di qualche scontro. Però attenzione, sono ormai più di un anno che i russi e americani si volano con i loro jet da combattimento uno a fianco all'altro, guardandosi un po' in cagnesco e un po' scambiandosi informazioni, e finora lo scontro si è sempre evitato. Allora, scusi Gaiani, lei che è un tecnico di queste cose, guardandosi un po' in cagnesco e un po' no, è un po' scambiandosi informazioni, cosa prevale, lo sguardo in cagnesco o lo scambio di informazioni? Le due cose sono parallele, perché nel momento in cui i russi dicono agli americani andiamo a bombardare là, gli stanno dicendo anche te l'ho detto, tienti alla larga, e viceversa fanno gli americani con i russi. Forse in questo momento questo scambio a livello militare è la migliore garanzia contro i colpi di testa politici. Certo. Mario, c'è una domanda per Gaiani? Sì. Dove scoppia l'incidente? Dai, perché è solo una questione di dove scoppia a questo punto, è evidente. Ma guarda, ci sono due o tre opzioni: una è il Mediterraneo orientale e la Siria, l'altra è il Mar Baltico sopra i cieli, nei cieli della Lettonia probabilmente, e l'altra è la la pur sempre viva Ucraina, dove se ne parla poco, ma le tensioni restano alte. Poi attenzione, un incidente potrebbe anche non essere solo militare, ma potrebbe coinvolgere qualche aereo civile, già successo in Ucraina. È già successo. E tu, Pietrangelo, c'hai una cosa da chiedere? Sì. Buongiorno, premesso che l'informazione è l'arma di distruzione per eccellenza, ora mi chiedo, senza più lo spettro del comunismo, come si alimenta la russofobia presso la nostra opinione pubblica? Magari facendo gli editorialini in difesa delle Pussy Riot? È una bella domanda. Io credo che lo strumento della propaganda oggi è sempre l'orso russo, non ha più la falce e il martello sovietica, ma diciamo gli emblemi del neozarismo. C'ha pure la croce di Cristo. Esattamente. E questo crea qualche difficoltà, perché con quel simbolo, in un momento in cui in Europa e in Russia c'è la percezione reciproca, completa, che la minaccia sia le versioni islamiche, l'estremismo islamico, è con quel simbolo che non è più la falce e il martello, Putin rischia di avere molte più simpatie, molte più amicizie nell'ambito della NATO di quante ne avrebbe avuto un tempo l'Unione Sovietica con la falce e il martello. Grazie. Grazie Gagliani. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS. Hillary Clinton, Donald Trump 1-0, conquistando, secondo un sondaggio della CNN, il 62% degli intervistati a fronte del 27% del rivale. Trump era arrivato a questo dibattito in svantaggio, secondo i sondaggi, e quindi aveva bisogno di recuperare. La candidata democratica ha ripreso la campagna elettorale, ma se la salute migliora, peggiorano i sondaggi, con un progressivo recupero, in alcuni casi un sorpasso, del rivale Donald Trump. Seconda sfida in diretta TV per Hillary Clinton e Donald Trump, vinto, secondo un sondaggio a caldo della CNN, nettamente dalla democratica. I numeri sono tutti per Hillary Clinton, più 11 punti sul rivale Donald Trump. La candidata democratica vola nei sondaggi. Gli esperti però rinviano tutto ai prossimi scontri diretti e parlano di caccia agli indecisi, con la secchiona Hillary contrapposta al magnate showman. Ecco, in queste settimane i sondaggi sono sempre più protagonisti delle elezioni americane e anche del referendum in Italia. Ma quanto sono affidabili questi sondaggi? Ecco Mario, secondo i sondaggi la Clinton è assolutamente vincitrice, ma nell'America reale, nel paese che va a votare, siamo sicuri che sia così? La domanda è il dubbio che ho io, ci sono due corse presidenziali, ce n'è una dei candidati e l'altra, a mio avviso, quella dei sondaggisti, e bisogna vedere se i sondaggi e la storia stavolta andranno d'accordo. Ho qualche dubbio, non tanto sulla vittoria della Clinton, che per me finora c'è, abbastanza chiara, ma ho dei dubbi su come è stato fotografato finora dai sondaggisti il popolo americano di Trump. Ecco, i sondaggi, la loro attendibilità, diciamo, quanto influiscono sulla sfida presidenziale? Mi sembra un punto delicato capire se influiscono oppure no. Mario Abis è il presidente della MACNO, professore di statistica e ricerca all'Università IUM di Milano. Buongiorno Abis. Buongiorno. Ecco, lei nell'ultima volta che ci siamo sentiti, proprio su questo argomento, ci ha detto che le tecniche di campionatura dei sondaggi sono rimaste ferme al Novecento. Cosa vuol dire? Beh, vuol dire essenzialmente che il modello della rappresentatività, che è la base del campione per capire come è fatta una popolazione e quindi dare delle inferenze che siano reali, è molto arretrato. Magari non è i primi del Novecento quando ho cominciato a usare il sondaggio, ma poco più avanti si continua a parlare di modelli di campionamento per cui la popolazione, l'area geografica, sesso, insomma, non serve più quello, non è questo modello né la società della rete, è un po' arcaico, e quindi il problema è che rappresentare l'evoluzione anche sociale. Ecco, ma lei si fida del numero che i sondaggisti stanno dando nella corsa alla Casa Bianca, che là, diciamo, forse sono un pochino più raffinati, non lo so se le tecniche sono un po' più complesse? Non credo che siano molto più complesse le tecniche americane, per certi versi in Europa siamo andati molti anni fa un po' più avanti degli americani, anche per numerosità di casi, di campioni, anche perché le società europee, quelle italiane in particolare, sono più complesse per certi versi di quelle americane. Però diciamo che in America c'è una tradizione, lavorando sempre su antinomie, no? Sì. Su due fattori, c'è una tradizione di leggera maggiore affidabilità dei sondaggi. Il tema americano attuale è un po' quello che si diceva prima, cioè si coglie tutto un pezzo di elettorato che notoriamente non si maschera un po' nei sondaggi, un elettorato maschilista, un po' reazionario, un po' di destra, un pezzo di elettorato giovanile, tante, ecco, tutto quel problema in America è proprio che certi pezzi della società americana, pezzi strutturali, pezzi importanti, nei sondaggi fatti al volo, non si riescono a cogliere. Secondo alcuni sondaggi la Clinton però avrebbe oltre 6 punti di vantaggio. Una quota di sicurezza, se fosse vero, per la candidata oppure no? È una quota buona, non di sicurezza. Non è una sicurezza perché in sostanza ci sono pezzi strutturali della popolazione che non sono stati ancora toccati dalle rilevazioni, anche al 5-6%, 7%, che poi è un margine alto, soprattutto perché continuate, si è confermato in crescita, sì. Potrebbe essere non bastare. Senta, c'è un punto che non tutti vogliono ammettere, però l'elettorato di Trump è un popolo che i sondaggisti non riescono tanto a fotografare perfettamente. È possibile che sia vero questo? È assolutamente possibile quello che dicevo prima, c'è tutto un pezzo di elettorato che per molti motivi si maschera oppure si nasconde oppure camuffa le risposte, ma questo succedeva anche in Italia, sì. Beh, ricorderà che negli anni 80 per esempio molte stime diciamo elettorali fatte dalla ricerca poi si sono sbagliate, ma anche negli anni 2000. Sì, anche dopo, ma insomma il dato fondamentale è che allora c'era un pezzo dell'elettorato democristiano, un pezzo dell'elettorato di destra che non si lasciava sondare. Senta, mi sembra che l'involuzione dei sondaggi sia dovuta anche al fatto che siano usati sempre di più per influenzare l'opinione pubblica, per diffondere un'idea di vittoria o di sconfitta, piuttosto che per dare un quadro obiettivo. È vero che c'è questo trend, questa tendenza? È assolutamente vero. I sondaggi ormai non sono più un pezzo tecnico-scientifico che viene usato dai media, ma sono essi stessi un pezzo del sistema mediatico, per cui anche le deformazioni, le approssimazioni, anche le brutture che si vedono costantemente in giro è perché i sondaggi sono un pezzo della comunicazione. Ecco, quindi sono sostanzialmente più uno strumento di persuasione che non di informazione. È uno strumento, anche questo però con un modello arcaico di concezione arcaica, sì, uno strumento di influenzamento, diciamo. Sì, appunto. Anche perché, come sappiamo benissimo, oggi la struttura di media nella convergenza, nel sistema delle multipiattaforme, è qualcosa che sfugge a un rapporto lineare, ma ti mando un messaggio e ti persuado, è molto più complicato. Ma c'è qualcosa che dovrebbe sostituire i sondaggi, secondo lei? Sì, andrebbero fatte delle ricerche molto, molto serie, molto, molto strutturate sulle tendenze sociali, sì. Cosa che in Italia non viene fatta ormai seriamente da anni, e quindi processi lunghi in cui innescare su variabili molto solide tutta una serie di applicazioni diciamo momentanee legate ai passaggi elettorali. Senza questo background questo strumento è assolutamente inutile. E quindi se fosse svelato questa carenza di strumentazione culturale sostanzialmente, sarebbe un colpo definitivo per l'industria dei sondaggi. L'industria dei sondaggi è un'industrietta, tanto perché piccolina. Okay. Poi in questa, anzi, chi fa i sondaggi generalmente nella comunità scientifica, in quella anche delle imprese, non è che vi venga visto di tranne pochi casi, naturalmente, sicuro, perché è una ricerca, è una strumentazione, una metodologia vecchissima che non serve a niente. Bisogna girare il tema, capire che la società va capita, va interpretata nella sua complessità, legata a tutti i fattori, attraverso altri strumenti, dentro i quali metto anche lo strumento della rilevazione. Siamo in chiusura. Senta, voglio ancora fare una domanda. Anche da noi stiamo assistendo a una guerra di sondaggi per il referendum. In questi giorni sembra esserci una rimonta da parte del sì. Lei pensa che siano attendibili o siamo sempre in quello scenario lì? No, siamo sempre in quello scenario per certi versi peggio. Se lei o gli ascoltatori aprono il sito dei sondaggi sul referendum, vedranno 5, 6, 7 sondaggi che danno risultati completamente diversi. Uno dice che sta vincendo il no nettamente con 6 punti di vantaggio, l'altro dice che sta rimontando il sì a un punto di vantaggio, un altro ancora che sono testa a testa. Democratica, l'altro che vince il no. Ma è in tutto, solo... in tutto questo il 30% sono indecisi e quindi, dopodiché, e quindi non vale quasi niente il dato. Diciamo. Essenzialmente è una cosa abbastanza deprimente quando poi c'è un'area di indecisi che supera il, appunto, 30%, e poi non sappiamo esattamente quanti andranno a votare, che è la vera variabile. La vera variabile. Grazie professor Abis, grazie Mario. Impressione, sembra che sia il quadro sia abbastanza, sì. Beh, Abis abbastanza ha fatto, chiaro, ha fatto, sì, un quadro assolutamente purtroppo... cioè difficile, Pietrangelo, sì, perché le elite adesso hanno creato, hanno creato una lingua soltanto per loro stessi, è diventata, ecco, autoreferenziale, hanno perso e il, quindi, senso della realtà. E quindi in questo distacco tra elite e popolo i sondaggi stanno in mezzo, servono a poco. Servono a poco, infatti il sondaggio cos'è? La doxa, l'opinione, la realtà invece è l'alitia, cioè la verità, che si svela e li frega. Io ti dico la verità, li leggo ma cioè, sì, non sì, l'importanza credito. Sempre meno. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS pubblici. Mix 24. Davide da Vicenza ci scrive una cosa divertente, dice: secondo un recente sondaggio i sondaggi sono inattendibili al 70%. Mi sembra che abbia colto il messaggio di Abis. E allora Pietrangelo, che ci fai sentire? Arriva. Oggi sovrastava lo sferragliare dei vagoni, quelli dei binari della metropolitana, e passo dopo passo le ragazze si facevano largo, ma era come un esercito stretto a schiera che attraversava il sotterraneo e vi depositava il bagaglio che era l'attesa della prossima stazione, la bella stagione. Ha telefonato l'ancillotto, ha trovato una truce e dice: c'è scritto Ginevra. Ah, ma siamo sicuri sia di Ginevra? Ah, questo è il dubbio. E con questo dubbio drammatico, beh, io noi sono... iniziamo la, ma settimana, Mario. Di chi era? Forse di Re Artù. Sai, i sovrani si trucca. Questa interpretazione benevola. Allora vai con la bolla. Vai. Allora, ma ci ha ucciso il video? No, direi di no, dai, a noi non ci ha ancora ucciso. No. Stiamo qua, ci divertiamo anche, cerchiamo di informare. Questo soprattutto. Dunque, io sono sempre della vecchia scuola, sarò un passatista, ma la mia vecchia scuola dice: follow the money, segui i soldi per capire che cosa succede nella contemporaneità. Allora, molti ascoltatori sanno che... Time Warner verrà acquistata, anzi è già stato Time formalizzato, Warner, che è quel gigante enorme di produttore di contenuti, tutto, eccetera eccetera, tutto da parte, l'acquisto avviene da parte di AT&T, quindi si mettono insieme le reti di comunicazione, le reti telefoniche e i contenuti. Costo dell'operazione 85 miliardi valore, di dollari. Valore delle due società insieme 310 miliardi, 130 milioni di utenti telefonici, 25 milioni di abbonati alla pay TV. Vabbè, che tutti gli americani, dai, in qualche modo. Marchi come, per essere chiari, HBO, Warner Brothers, DC Comics, CNN, vengono comprati dai telefoni. Sì. L'unico punto dove i due candidati alle presidenziali, cioè, americane, Clinton e Trump, sono d'accordo è questo, cioè che quell'accordo non si può fare. Trump ha detto distrugge la democrazia e Tim Kaine, il vicepresidente del ticket democratico, ha detto: beh, ma noi siamo per la concorrenza, come dire, ma qua forse l'antitrust deve darci un'occhiata. Mi sa che sarà inutile, nel senso che le tendenze purtroppo del mercato sono queste, cioè sì, però abbiamo anche capito quasi dappertutto contenuti. Che siamo agli ultimi, alle ultime possibilità di regolare in qualche modo pezzetti sì. di mercato, se non vogliamo essere disintegrati. Io sono molto preoccupato. Questa è una notizia molto pesante, perché è la definitiva vittoria dei media sulla politica. Non solo, ma c'è anche un altro aspetto, è la sconfitta degli editori che fanno contenuti nei confronti dei giganti che fanno autostrade dove passano dati sostanzialmente. Allora, la specializzazione dei lavori, secondo me, è un bene prezioso, lo dico io. Però che non sono certo. Però io dico che in questo settore potrebbe esserci spazio anche per le piccole boutique. Speriamo. Che producono qualità, però certo dal punto di vista del rapporto fra i media, le media company anche telefoniche e la politica, il rapporto si è rovesciato. Cioè, voglio dire, che forza può avere la politica di fronte a uno scenario del pochissimo. Genere? Salamino! Obama vota sì, e lo sappiamo. Il presidente degli Stati Uniti vota sì al referendum sulla riforma istituzionale scritto dalla soave, silente, severa Maria Elena Boschi, adesso anche schiva, perché poverina, in quell'indovina chi viene a cena alla Casa Bianca doveva esserci lei, solo lei, soltanto lei. Metti caso che al posto del solito Benigni, la cantata, per esempio, Giovanni, avrebbe potuto farla lei. Ciao papà. Sì. Burlava e corre. Dai, su. Con scarsa pietà. Comunque. No, figuriamoci. Non ancora spenti gli echi del festoso, fastoso, fragoroso viaggio in America, si raccolgono spot e semispot per la campagna referendaria. Per esempio, Paolo Sorrentino, regista che tutto il mondo ci invidia, non ha ancora detto un chiaro sì al referendum della soave, silente, severa e schiva Boschi. In compenso l'ha detto il suo giovane papa, sigarette in bocca. Che cosa ha detto? Cosa hai intenzione di fare? La rivoluzione. La rivoluzione, altro non è che la riforma. Oh, poi anche Roberto Benigni, dopo aver detto no, ha detto no e sì, poi ha detto ni, quindi sì, ieri, circondato da polizia e carabinieri alla festa del cinema a Roma, ha detto di non ricordarsi più se ha detto sì o no. Vabbè. Comunque Obama ha detto sì, e grazie a Eugenio Scalfari, che è un fior di giornalista che non nasconde nulla nel proprio taccuino, sappiamo già che anche Giorgio Napolitano vota sì. Vabbè, quello scoperta. Lo sapevamo, vero? Sì. Ah sì, giusto, è andato a trovarlo al Quirinale, ma questo via vai che c'è dal Quirinale non si capisce, no. Questa non è una notizia, cioè no, la notizia qual è? La notizia è che è Sergio Mattarella a votare sì. Oh. Quando l'ha detto? Lui non l'ha mai detto. Io non l'ho sentito. Neanche. L'abbiamo letto nell'editoriale nell'editoriale di Prima Scalfari, dici che quello che si dice non conta, dici che quello che si dice non quello conta, là ci ha parlato, quello conta. Gliel'ha detto, allora lui giustamente l'ha scritto, insomma. Vabbè. Abbiamo a questo punto l'arbitro che segna. Ah, tu dici che vota no? No, non vota. Io dico che non l'ha detto. E non lo dice. L'arbitro che segna e porta, insomma, però è giusto, il sì è presidenziale. Una volta che vota Obama, vuoi che non voglia votare lui? Però ho scoperto una cosa, caro Giovanni, e cioè che dopo il referendum cambierà pure l'inno. Basta questi Fratelli d'Italia, che oltretutto è veramente noioso assai. E l'inno sapete quale sarà? Quale? Questo. Ma non è suo papà? No. Sì. Burlava e corre. Vabbè, bisogna lasciarlo giocare, Pietrangelo. Sì, Pietrangelo è così. Uno spirito. Non c'è niente da fare. Però è una nostra ricchezza irrinunciabile. Noi lo amiamo. Vai, Mario. I call your name, but you're not there. Che bello, mi sembra di stare in un'America molto lontana. Da quella di oggi? Sì, più felice. Allora, questa è Mamas and Papas, I call your name, ovviamente. E le cose bisogna chiamarle per nome, e però io sono sempre ancora della vecchia scuola, che una volta che so il nome Follow the money. Segui i soldi. Seguendo i soldi stavolta dall'America, quindi dalle elezioni presidenziali, l'accordo Time Warner, passiamo a un'altra sigla, un altro gigante che si chiama Gazprom, che è l'azienda energetica russa che mantiene la Russia ed è una delle armi diplomatiche, ovviamente tra le più importanti di Vladimir Putin. Certo. Interessantissimo, perché quello che sto per dire, perché succede proprio mentre Matteo Renzi dava il niet, quindi no alle sanzioni alla Russia, l'Unione Europea, attraverso il commissario antitrust, Margaret Vestager, che cosa faceva? Sta per siglare un accordo con Gazprom per mettere termine alla lite in tribunale, diciamo così, con l'Unione Europea sull'abuso di posizione dominante sul gas. Ora, cioè, questo cosa vuol dire in pratica? Vuol dire che Gazprom potrà operare nel mercato senza avere la spada di Damocle dell'Unione Europea che gli dice: tu non lo puoi fare perché sei con abusi della tua posizione. E quindi, diciamo, si superano in qualche modo le sanzioni. Assolutamente sì, non solo, ma questo creerà dei problemi probabilmente con l'Ucraina, perché sapete tutti, lì la tensione è alle stelle, con gli stessi paesi baltici, che ovviamente accusano la Russia di usare il gas come arma di pressione, cioè, Mario, diplomatica. Per dirla semplice, i soldi non vogliono la guerra fredda? No. No, mi pare di capire. I soldi non solo non la vogliono, ma vanno in direzione contraria. Appunto. Ed è questa la cosa interessante, che nel cuore dell'Europa la Commissione faccia un accordo con Gazprom di quel tipo, mentre gli Stati Uniti stanno andando alla guerra fredda con la Russia. Chi ha ragione? Lo vedremo presto, ma io credo che la business community, diciamo così, stia andando in una direzione assolutamente contraria rispetto a quella di Washington. E vedremo che effetto sulle elezioni americane. E noi, l'Italia, e non solo, dobbiamo individuare qual è il nostro reale interesse nazionale in questa cosa. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, l'SMS, pubblicità. Mix 24. A nome delle cittadine e dei cittadini milanesi, ho oggi l'onore, in qualità di Presidente dell'Assemblea, di dichiararlo ufficialmente cittadino milanese. Dopo il tentativo del 2012, Milano ha conferito la cittadinanza onoraria al Dalai Lama, la massima autorità spirituale del buddismo. Nato in Tibet nel 1935, scelto per il suo ruolo all'età di 4 anni, da sempre il Dalai Lama gira al mondo insegnando la pratica del buddismo. Il buddismo insegna a trasformare prima di tutto la propria mente, quindi il comportamento della parola e del corpo. Dopo la repressione di una rivolta nazionalista da parte delle truppe cinesi, nel 1959 si rifugia in India e forma un governo in esilio, da dove porta avanti la causa del Tibet. I 6 milioni di tibetani in Tibet sono ciò che conta. E il benessere di questi tibetani è ciò che mi sta a cuore. Nell'89 riceve il Nobel per la pace per la sua opposizione all'uso della violenza nella lotta per la liberazione del Tibet. Mettiamo il caso che si sia vittima di un'ingiustizia. Allora è bene opporsi nel modo più appropriato alla situazione, ma sempre motivati dall'amore, quindi senza odio. Nel 2011 il Dalai Lama ha ridotto il suo ruolo politico, lasciando di fatto il governo del Tibet in esilio. Tra spiritualità e lotte civili è una delle icone dei nostri tempi. Va bene, quindi dopo il giornale radio un faccia a faccia della storia con il Dalai Lama. Canzoniere. Tornate, ma credevi trovare la famiglia mia o distrutta o a posto onestamente, ma perché? Perché io tornavo dalla guerra, dai paesi dove c'era stata la guerra, dove si bombardava. Invece qua nessuno ne vuole sentire parlare. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS, aiutino Pietrangelo. Beh, mi rifiuto di dare l'aiutino. Va bene, allora vediamo se rispondono. Mario, c'è un piccolo aggiornamento prima Ma non ci sono grandi cose, niente. In realtà stavo guardando che i titoli di Stato portoghesi sono un po' saliti nella quotazione. Vabbè. È importante, no, il Portogallo è importante perché uno di quei, lo so che tu dici, ma il Portogallo, io ti dico no, il Portogallo è importante perché è uno di quei paesi che sta in bilico insieme alla Grecia e non sappiamo che cosa fare per salvarlo. Molti pensionati italiani vanno a vivere in Portogallo. Sì, non so se gli convenga, perché sì. I titoli di Stato portoghesi, comunico, sono usati come collaterale dalla BCE che fornisce liquidità. Vabbè, aspetta, non servono più come garanzia se il loro valore scende giù. Quindi è importante che. Cioè, vuoi vedere il grafico? Adesso, lo sprofondo, guarda qua. Ammazza, bruttissimo, ecco. Vi consiglio di non guardare il grafico. Di non andare in Portogallo, almeno a svernare, non lo so. Adesso il professor Roberto Bernabei ci commenta le notizie di medicina apparse sulle riviste più importanti del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. JAMA Internal Medicine, giugno 2016. Associazione tra partecipazione a servizi religiosi e mortalità nella donna. Ci sono stati vari studi sull'effetto della partecipazione a servizi religiosi sulla mortalità, ma erano tutti studi limitati nei metodi e quindi scarsamente attendibili. Tra l'altro erano studi piccoli con numeri non significativi. Questo studio invece presenta una robustezza perché è stato fatto su oltre 75.000 infermiere partecipanti al Nurses Health Study, a cui è stato somministrato tra il 1992 e il 2012 un questionario sulla salute, su tutti i vari parametri, ma anche sulla loro partecipazione a servizi religiosi e sulla loro vita di relazione in generale. Focalizzando sulla partecipazione ai servizi religiosi, si è visto che c'erano degli effetti. Intanto, nelle 75.000 nurse c'erano state oltre 2.700 morti per malattie cardiovascolari e 4.500 per cancro. Ma in modo abbastanza sorprendente, chi è che partecipava ai servizi religiosi per più di una volta alla settimana aveva una diminuzione della mortalità in generale del 33% ed anche di quella più specifica legata alle malattie cardiovascolari e al cancro. Essere depressi, ottimisti, fumare o avere una vita sociale influenzavano certamente il dato, ma in modo limitato. Per cui gli autori dello studio dicono che il medico deve esplorare anche questo dato per eventualmente offrire una risorsa in più a chi voglia una migliore salute. E per chiudere, Gloria Guerrera, come inizia la settimana? Oggi una canzone per chi, giallo di gelosia, scioglie al sole ogni gelo e mantiene lo sguardo di un folle. Dei giornalisti, completamente. Per te, ma non penso che possa dirti tutto quello che ti dico io. Spero che, mi auguro di cuore che non ci incontreremo mai più, per non perdere l'ultimo briciolo di dignità che mi rimane, ed evitare di squagliarmi sotto il sole, ed evitare di guardarti come un pazzo che ti vuole.